26. Madre e figlio. Quando il signor Thornton aveva lasciato la casa quella mattina, era quasi accecato per la cocente delusione. Aveva le vertigini, come se Margaret, invece di guardare, di parlare e di muoversi come una donna tenera e graziosa, fosse stata una robusta pescivendola e gli avesse sferrato un sonoro pugno. Aveva veri e propri dolori fisici, un violento mal di testa e tachicardia. Non riusciva a sopportare il rumore, la luce abbagliante, il continuo brusio della gente che si muoveva per strada. Si sentiva un idiota perché soffriva a quel modo, eppure, in quel momento, non riusciva a ricordare la causa della sua sofferenza e a capire se fosse proporzionata alle conseguenze che aveva prodotto. Sarebbe stato un sollievo per lui potersi sedere a piangere sulle scale di casa accanto a un bimbetto che arrabbiato si esasperava tra furenti lacrime per qualche offesa ricevuta. Dichiarò a se stesso che odiava Margaret, ma un irrefrenabile impulso d'amore squarciava come un lampo i suoi sentimenti tempestosi e foschi anche quando formava parole che esprimevano odio. Non trovava conforto più grande del tenersi stretto al suo tormento e del sentire che, proprio come le aveva detto, lei avrebbe potuto rifiutarlo, condannarlo, trattarlo con la sua somma altezzosa indifferenza, ma non sarebbe cambiata una virgola, non sarebbe riuscita a farlo cambiare. L'amava e l'avrebbe amata, e avrebbe sfidato lei e quel dolore fisico. Restò immobile per un momento per rendere chiara e ferma questa decisione. Stava passando un omnibus diretto in campagna. Il conducente pensò che volesse andare da qualche parte e si fermò vicino al marciapiede. Era troppo complicato scusarsi e dare spiegazioni, quindi vi salì e venne portato via, passando davanti a lunghe file di case, poi davanti a ville con giardini ben tenuti finché non raggiunsero vere e proprie siepi di campagna e in poco tempo una cittadina. Scesero tutti, lo stesso fece Thornton, e poiché loro si allontanarono, si allontanò anche lui. Andò verso i campi con passo veloce, dal momento che muoversi in modo energico gli calmava i pensieri, gli era tornato alla mente tutto ora. La penosa figura che doveva aver fatto, l'assurdità di andare a fare proprio quello che si era detto così tante volte essere il gesto più stupido al mondo, si era ritrovato esattamente con le stesse conseguenze che in momenti di lucidità come quello aveva sempre dato per certe, qualora si fosse davvero messo in ridicolo. Quei bellissimi occhi, quella bocca carnosa e socchiusa che sospirava così vicina alla sua spalla soltanto il giorno prima, lo avevano stregato? Non riusciva nemmeno a scrollarsi di dosso il ricordo di quel contatto delle sue braccia che l'avevano avvolto una sola volta e forse non lo avrebbero fatto mai più. Si era fatto soltanto delle impressioni su di lei. Non la capiva fino in fondo. A volte era così coraggiosa e altre così timida, ora così dolce, poi così altezzosa e arrogante. E poi pensò a tutte le volte che l'aveva incontrata con l'intento di dimenticarla una volta per tutte. La vedeva con tutti i suoi abiti, in tutti i suoi umori, e non sapeva quale fosse il migliore. Anche quella mattina era incantevole, con quegli occhi che lo fulminavano all'idea che, avendo condiviso il pericolo il giorno prima, avesse per lui anche solo un interesse. Se quella mattina Thornton era stato un idiota, come aveva assicurato a se stesso almeno una ventina di volte, non diventò molto più saggio nel pomeriggio. Tutto quello che ottenne in cambio dei 6 penny per l'omnibus fu una convinzione ancora più vivida che non c'era e non ci sarebbe mai stata un'altra come Margaret, che lei non lo amava e non lo avrebbe mai amato, ma che né lei né altri al mondo gli avrebbero impedito di amarla. E così fece ritorno nella piazzetta e risalì sull'omnibus per tornare a Milton. Era tardo pomeriggio quando scese vicino alla sua fabbrica. I soliti luoghi riportarono le vecchie abitudini e il vecchio corso dei pensieri. Sapeva che aveva parecchie cose da fare oltre al suo consueto lavoro a causa dei disordini del giorno prima. Doveva vedere i suoi colleghi magistrati, doveva concludere degli accordi fatti solo per metà in mattinata per la tranquillità e la sicurezza dei suoi operai irlandesi. Doveva proteggerli da ogni occasione di contatto con gli insoddisfatti lavoratori di Milton. Come ultima cosa, doveva andare a casa e affrontare sua madre. La signora Thornton era rimasta seduta nella sala da pranzo tutto il giorno, aspettandosi da un momento all'altro la notizia che la signorina Hale avesse accettato la proposta del figlio. Si era irrigidita più e più volte al minimo rumore in casa. Aveva recuperato la metà del lavoro a maglia che aveva disfatto, aveva incominciato a maneggiare con l'ago diligentemente, benché attraverso lenti appannate con mano malferma. E tante volte la porta si era aperta e qualcuno di cui non le importava nulla era entrato per qualche insignificante faccenda. Poi l'aspetto severo del suo volto si ammorbidì e i suoi lineamenti si rilassarono in un'espressione di sconforto così insolito per la loro consueta durezza. Si divincolò dalla contemplazione di tutti i tristi cambiamenti che il matrimonio del figlio le avrebbe portato e si sforzò di concentrarsi sulle abitudini domestiche. I futuri coniugi avrebbero avuto bisogno di nuova biancheria per la casa appena sposati, e la signora Thornton si fece portare ceste su ceste di tovaglie e tovaglioli e iniziò a calcolare quanta scorta avesse. C'era un po' di confusione tra ciò che era suo e che quindi era contrassegnato dalle lettere GHT che stavano per George e Hannah Thornton e ciò che era di suo figlio comprato con i suoi soldi e contrassegnato dalle sue iniziali. Alcuni pezzi con le iniziali GHT erano antichi modelli in damasco olandese estremamente raffinati. Non ce n'erano più così in giro. La signora Thornton rimase a lungo lì a guardarli. Appena sposata erano stati il suo orgoglio. Poi inarcò i sopraccigli, strinse forte le labbra e scucì meticolosamente la G e l'H. Arrivò al punto di cercare il filo rosso turco per ricamare le nuove iniziali. Ma era finito e non se la sentiva di mandare qualcuno a comprarlo proprio in quel momento. Si mise a fissare il vuoto, una serie di immagini le apparve davanti agli occhi. E di tutte suo figlio era il principale, l'unico protagonista. Suo figlio, il suo orgoglio, la sua proprietà ancora non arrivava. Senza dubbio era con la signorina Hale. Il nuovo amore la stava già scalzando dal primo posto nel suo cuore. Ho un dolore atroce, una fitta di vana gelosia l'attraversò. Non riusciva del tutto a capire se fosse più un dolore fisico o mentale, ma la costrinse a sedersi. Un attimo dopo si era già alzata, ben dritta e in piedi come sempre, e per la prima volta quel giorno aveva un sorriso tetro sul volto, pronto per la porta che si apriva e per accogliere il gioioso vincitore che mai avrebbe dovuto sapere dell'intenso rammarico che provava la madre all'idea del suo matrimonio. In tutto ciò erano pochi i pensieri rivolti alla futura nuora. Sarebbe stata la moglie di John. Prendere il posto della signora Thornton come padrona di casa non era che una delle mirabili conseguenze che avrebbero completato la gloria suprema, il lusso e gli agi della casa, tutta la raffinata e regale biancheria, l'onore, la benevolenza, l'obbedienza, le compagnie di amici sarebbero finiti, in modo naturale, come gemme sulla veste di un re, mentre sarebbero stati di poco valore se presi singolarmente. Essere scelta da John avrebbe distinto una sguattera dal resto del mondo. E la signorina Hale non era così male. Se fosse stata una ragazza di Milton, alla signora Thornton sarebbe sicuramente piaciuta. Era pungente, aveva gusto e spirito e carattere. Era vero, purtroppo era piena di pregiudizi e molto ignorante, ma c'era da aspettarselo perché era stata istruita al sud. Uno strano, umiliante confronto tra lei e Fanny attraversò la mente della signora Thornton. E per una volta parlò con durezza a sua figlia, la insultò apertamente, poi, come per penitenza, prese i commenti alla Bibbia di Henry e cercò di concentrarvisi, invece di continuare a ispezionare tovaglie, occupazione di cui andava fiera e che le piaceva. Oh, i suoi passi, finalmente! Lo sentì addirittura mentre pensava a finirne una frase, mentre la scorreva con gli occhi e l'avrebbe potuta ripetere meccanicamente a memoria, parola per parola, lo sentì entrare nell'ingresso. I suoi sensi risvegliati sapevano interpretare il rumore di ogni movimento. Adesso appendeva il cappello, adesso era proprio davanti alla porta della stanza. Perché si era fermato? Oh, pensò al peggio. Il suo capo era ancora chino sul libro, non alzò lo sguardo. Lui si avvicinò al tavolo e rimase lì, immobile, aspettando che avesse finito il paragrafo che apparentemente l'assorbiva. Con uno sforzo alzò gli occhi. Ebbene, John? Sapeva cosa voleva dire, ma si era fatto coraggio, desiderava ardentemente rispondere con una battuta. L'amarezza del suo cuore avrebbe potuto farne scaturire una, ma sua madre meritava qualcosa di meglio da lui. Si mise alle sue spalle, di modo che lei non potesse vederlo, e piegandole la testa all'indietro, baciò il suo grigio viso di pietra, sussurrando: «Nessuno mi ama, nessuno tiene a me, soltanto voi, madre». Si voltò e rimase in piedi, con la testa appoggiata alla mensola del caminetto, con le lacrime che premevano per entrare nei suoi occhi di uomo. Lei si alzò, vacillò, per la prima volta in vita sua quella donna forte vacillò. Gli mise le mani sulle spalle, era una donna alta, lo guardò in faccia e fece in modo che anche lui la guardasse. L'amore di una madre proviene da Dio, John, dura per sempre. L'amore di una ragazza è come una nuvola di fumo, cambia col vento. E lei non ti vuole, ragazzo mio, vero? Strinse i denti, li mostrò per tutta la lunghezza della bocca, come un cane che ringhia. Lui scosse il capo. Non sono degno di lei, madre. Sapevo di non esserlo. Digrignò qualche parola. Lui non riuscì a sentire quello che diceva, ma dallo sguardo dei suoi occhi lo interpretò come una maledizione, seppur priva di volgarità, carica tuttavia della ferocia più inaudita. Ma il suo cuore tornò leggero, sapendo che lui era di nuovo suo. Madre, disse prontamente, non posso sentire neanche una parola contro di lei. Risparmiatemi, risparmiatemi, sono molto debole, ho il cuore a pezzi, l'amo ancora, la amo come non mai. E io la odio, disse la signora Thornton con voce spietata. Ho cercato di non odiarla quando si era messa tra noi due, perché dicevo a me stessa, lo renderà felice, e avrei dato il cuore perché fosse così. Ma adesso la odio perché tu sei infelice. Sì, John. Non c'è bisogno che tu nasconda a me il tuo cuore dolente. Io sono tua madre. Ti ho dato alla luce, la tua sofferenza è la mia agonia, e se tu non la odi, io sì. Allora me la fate amare ancora di più. La trattate ingiustamente, io devo riportare il corretto equilibrio. Ma per quale motivo parliamo di amore e odio? Non le importa di me, questo basta. Anzi, è troppo, non parliamone più. È l'unica cosa che potete fare per me in questa faccenda. Non nominiamola più. Ah, oh, con tutto il cuore. Vorrei soltanto che lei e tutto ciò che le appartiene fossero rispediti nel luogo dal quale sono venuti. Rimase in silenzio, fissando il fuoco per qualche minuto, mentre lo guardava, i suoi occhi asciutti e offuscati si riempirono di inconsuete lacrime. Tuttavia sembrò seria e tranquilla, proprio come sempre quando lui parlò di nuovo. Sono stati emessi mandati per cospirazione contro te, tre uomini, madre. La rivolta di ieri ha mandato a monte lo sciopero. E il nome di Margaret non fu più pronunciato fra madre e figlio. Ritornarono al modo di parlare di sempre, di fatti, non di opinioni, e ancor meno di sentimenti. Le loro voci e i loro toni erano calmi e freddi. Un estraneo se ne sarebbe potuto andare pensando di non aver mai visto due parenti così stretti comportarsi con una tale gelida indifferenza. 27. Un frutto. Il signor Thornton si dedicò anima e corpo a tutte le occupazioni del giorno seguente. C'era una modesta richiesta di prodotti finiti e, dal momento che riguardava il suo settore commerciale, ne approfittò e concluse affari difficili. Fu puntuale all'appuntamento con i suoi colleghi magistrati, diede loro la migliore assistenza che la sua matura consapevolezza era in grado di offrire, mettendo a disposizione la sua capacità di cogliere le conseguenze a colpo d'occhio e di arrivare quindi rapidamente a una decisione. Uomini più anziani, uomini che vivevano in città da lungo tempo, uomini che possedevano un patrimonio molto più cospicuo, accumulato e tramutato in terreni, mentre il suo era tutto capitale mobile impegnato nel commercio, si rivolgevano a lui per un parere puntuale e tempestivo. Era lui l'unico delegato a trattare con la polizia, a guidare tutte le iniziative necessarie. Nel rispetto che essi inconsciamente nutrivano, non si curava più che del leggero venticello dell'ovest che nel suo percorso verso l'alto faceva deviare a stento il fumo che fuoriusciva dalle alte ciminiere. Non era consapevole della tacita stima che avevano per lui, altrimenti, se lo fosse stato, l'avrebbe percepita come un ostacolo all'obiettivo che aveva in mente. Per come stavano le cose, pensava soltanto a come raggiungerlo rapidamente. Era l'avido orecchio di sua madre ad assorbire dalle mogli di questi magistrati e ricchi signori i commenti su quanto il signor Tizio e il signor Caio stimassero il signor Thornton e sul fatto che se non ci fosse stato lui, le cose sarebbero andate molto diversamente, anzi molto male. Sbrigò con precisione i suoi affari e finì per quel giorno. Era come se la profonda mortificazione del giorno precedente e le ore successive, trascorse inutilmente in uno stato di stordimento, avessero dissipato tutta la nebbia dalla sua mente. Sentiva il suo potere e ne era compiaciuto, riusciva quasi a sfidarlo il suo cuore. Se l'avesse saputa, avrebbe potuto cantare la canzone del mugnaio che viveva vicino al fiume Dee. Non mi importa di nessuno, a nessuno importa di me. Gli furono portate le prove contro Boucher e altri capibanda della rivolta, quelle contro gli altri tre, per cospirazione, mancavano. In modo rigoroso incaricò la polizia di stare allerta perché il braccio della legge, che è giusto e lesto, doveva essere pronto a colpire alla prima prova di colpevolezza. Dopodiché lasciò la stanza calda e maleodorante del distretto amministrativo e uscì in strada, nell'aria più fresca ma ancora soffocante. Di colpo sembrò lasciarsi andare. Era così stanco che non riusciva a controllare i pensieri. Deviavano verso di lei, richiamavano la scena, non quella del suo distacco e del suo rifiuto il giorno precedente, ma quella degli sguardi e dei gesti il giorno prima ancora. Camminava meccanicamente lungo le strade affollate, procedendo a zigzag tra le persone, senza nemmeno vederle. Si sentiva quasi male per la voglia irrefrenabile di rivivere ancora una volta quella mezz'ora, quell'unico breve lasso di tempo in cui lei lo aveva abbracciato con il cuore che batteva contro il suo. Insomma, signor Thornton, con che freddezza fate finta di non vedermi? E come sta la signora Thornton? Che tempi questi! A noi dottori non piacciono, ve lo garantisco. Oh, perdonatemi, dottor Donaldson, davvero non vi ho visto. Mia madre sta bene, grazie. È una bella giornata, buona per il raccolto, spero. Se il raccolto del grano è buono, avremo un commercio vivace il prossimo anno, qualunque cosa voi abbiate, voi medici. Oh, sì, si salvi chi può. Il brutto tempo per voi e i vostri periodi cattivi per me sono quelli buoni. Quando il commercio va male ci sono più malattie e più decessi tra voi di Milton di quanti immaginiate. Non vale per me, dottore, ho una salute di ferro. Neanche la notizia del peggior debito che abbia mai avuto mi ha causato mai la tachicardia. Questo sciopero, che mi riguarda più di chiunque altro a Milton, più di Hamper, non mi ha rovinato l'appetito. Vi converrà cercare un paziente da un'altra parte, dottore. A proposito, mi avete raccomandato una buona paziente, povera signora. Non per continuare a parlare in questo modo così poco sensibile, ma credo seriamente che la signora Hale, quella signora di Crampton, sapete, non abbia molte settimane da vivere. Non ho mai avuto alcuna speranza che guarisse, come penso di avervi detto, ma l'ho vista oggi e penso che sia grave. Thornton rimase in silenzio. La tanto ostentata regolarità del suo battito venne meno per un istante. Posso fare qualcosa, dottore? Domandò con un tono di voce diverso. Come sapete, lo avrete capito, non sono molto facoltosi. C'è qualcosa che possa sollevarla o qualche prelibatezza che le farebbe bene? No, rispose il dottore scuotendo il capo. Ha solo una gran voglia di frutta, una febbre costante. Delle pere e giargonelle andranno bene. Ce ne sono tante al mercato. Oh, sono certo che mi farete sapere se c'è qualcosa che posso fare, rispose Thornton. Conto su di voi. Non temete, non risparmierò il vostro borsello. So che è abbastanza capiente. Magari mi lasciaste carta bianca per tutti i miei pazienti e per tutti i loro bisogni. Ma la benevolenza del signor Thornton non era generica, non si trattava di filantropia. Pochi lo avrebbero persino creduto capace di generose manifestazioni. Tuttavia, si recò dritto dal miglior fruttivendolo di Milton e scelse il grappolo d'uva nera dalla pruina più delicata. Le pesche più colorate, i germogli di vite più freschi vennero impacchettati in un cesto e il bottegaio rimase in attesa di risposta alla sua domanda: dove dobbiamo portarlo, signore? Non ci fu risposta. A Marlborough Mill, immagino, signore. No, disse signor Thornton, datemi pure il cesto, lo porterò io. Gli ci vollero entrambe le mani per tenerlo e dovette attraversare quella parte della città dove in genere facevano compere le signore. Molte ragazze di sua conoscenza si voltavano a guardarlo, pensando a quanto fosse strano vederlo occupato come un facchino o un fattorino. Rifletteva: non mi farò scoraggiare dal pensiero di lei nel fare ciò che mi va di fare. Desidero portare questa frutta alla sua povera madre ed è semplicemente giusto che io lo faccia. Non mi impedirà col suo disprezzo di fare quello che mi fa piacere. Sarebbe ridicolo se per timore di una ragazza superba non riuscissi a fare un gesto gentile per un uomo che mi sta a cuore. Lo faccio per il signor Hale. Lo faccio a dispetto di lei. Camminò con un passo insolito e in un attimo raggiunse Crampton. Salì due gradini alla volta ed entrò nel salotto prima che Dixon potesse annunciarlo. Arrossì in viso. E gli brillavano gli occhi di sincera premura. La signora Hale era distesa sul divano con la febbre alta. Il signor Hale stava leggendo ad alta voce. Margaret stava cucendo seduta su un piccolo sgabello accanto a sua madre. Se durante questo incontro il suo cuore batté forte per il signor Thornton, non fu così. Non fece caso a lei, quasi nemmeno allo stesso signor Hale. Andò dritto con il cesto dalla signora Hale e disse, con quel tono sommesso e gentile, che è così toccante quando viene usato da un uomo robusto e in piena salute che si rivolge a un debole malato. Ho incontrato il dottor Donaldson, signora, e siccome mi ha detto che la frutta vi farebbe bene, mi sono preso la libertà, la grande libertà, di portarvi un po' di quella che mi sembrava migliore. La signora Hale era estremamente sorpresa, estremamente contenta, quasi smaniosa di assaggiarla. Il signor Hale usò meno parole per esprimere una più profonda gratitudine. Vai a prendere un piatto, Margaret, un cestino, qualsiasi cosa. Margaret restò in piedi accanto al tavolo, quasi temendo di muoversi o di fare rumore che il signor Thornton si accorgesse della sua presenza nella stanza. Pensava che sarebbe stato imbarazzante per entrambi scontrarsi intenzionalmente e in piedi dietro suo padre, ora si immaginò che essendo stata seduta su una sedia bassa, nella fretta non l'avesse vista, come se lui non ne sentisse la presenza ovunque, sebbene i suoi occhi non si fossero mai posati su di lei. Devo andare, disse lui, non posso fermarmi, mi perdonerete questa libertà. I miei modi sgarbati, troppo bruschi, temo, ma sarò più cortese la prossima volta. Permettetemi il piacere di portarvi ancora della frutta, se dovessi vederne altra così appetitosa. Buon pomeriggio, signor Hale. Arrivederci, signora. Se n'era andato. Non una parola, nemmeno un'occhiata a Margaret. Credeva che non l'avesse vista. Andò a prendere un piatto in silenzio e con garbo tolse la frutta dal cesto con la punta delle sue dita delicate. Era stato gentile a portarla e dopo ieri poi. Oh, è così deliziosa, disse la signora Hale con un filo di voce. Che caro pensare a me. Margaret, tesoro, assaggia solo quest'uva. Non è stato caro? Sì, rispose Margaret con tono dimesso. Margaret, disse la signora Hale con voce lamentosa. Non ti piace nulla di quello che fa il signor Thornton. Non ho mai visto nessuno con più pregiudizi di te. Il signor Hale stava sbocciando una pesca per sua moglie e tagliandosene un piccolo pezzo per sé, disse: Se io avessi dei pregiudizi, il dono di questa frutta così deliziosa li dissolverebbe completamente. Non ho mai mangiato frutta così buona, no, neanche nell'Hampshire da quando ero un ragazzo. E per i ragazzi, immagino, tutta la frutta è buona. Ricordo che mangiavo prugnole e mele selvatiche con gusto. Ti ricordi i cespugli aggrovigliati di ribes, Margaret, nel giardino di casa all'angolo del muro esposto a ovest? Come non se lo ricordava? Non si ricordava ogni macchia di pioggia sul vecchio muro di pietra, i licheni grigi e gialli che lo segnavano come una mappa, il piccolo geranio selvatico che cresceva nelle crepe. Era stata sconvolta dagli avvenimenti degli ultimi 2 giorni. In quel preciso momento tutta la sua vita gravava sulla sua forza d'animo. E in qualche modo quelle incaute parole del padre che accennavano ai ricordi dei bei vecchi tempi la fecero sobbalzare e facendo cadere per terra il suo lavoro di cucito, uscì di corsa dalla stanza e andò nella sua camera. Aveva appena dato sfogo ai primi soffocanti singhiozzi quando si accorse di Dixon, in piedi vicino alla cassettiera, chiaramente intenta a cercare qualcosa. Oh mio Dio, signorina, mi avete spaventata. La signora non è peggiorata, vero? È successo qualcosa? No, niente. Solo che sono una sciocca, Dixon, e desidero un bicchiere d'acqua. Cosa stai cercando? In quel cassetto tengo le mie mussoline. Dixon non disse nulla, ma continuò a rovistare. Un profumo di lavanda si diffuse in tutta la stanza. Finalmente Dixon trovò quello che voleva. Margaret non riusciva a vedere cosa fosse. Dixon si voltò e le disse: Ora non ho voluto dirvi cosa cercavo perché ne avete già abbastanza da sopportare e so che questa cosa vi affliggerà. Era mia intenzione tenermela per me fino a stasera, magari o giù di lì. Di che si tratta? Per favore, Dixon, dimmelo subito. Quella ragazza che andate a trovare, quella Higgins, intendo. Allora? Allora è morta stamattina. E sua sorella è qui, è venuta a pregarci con una strana richiesta. Pare che la ragazza morta avesse il desiderio di essere sepolta con qualcosa di vostro, e così la sorella è venuta a chiederlo e stavo cercando una cuffia da notte che non fosse troppo buona per darla via. Oh, lascia che ne trovi una io, disse Margaret tra le lacrime. Povera, povera Bessie, non pensavo che non l'avrei mai più rivista. Beh, c'è un'altra cosa. La ragazza che è qui sotto ha voluto che vi chiedessi se vi piacerebbe vederla. Ma è morta, rispose Margaret impallidendo. Non ho mai visto una persona morta. Oh no, no, preferisco di no. Non ve l'avrei mai chiesto se voi non foste entrata. Le ho detto che non avreste voluto. Vado giù io a parlarle, disse Margaret, per il timore che i modi scortesi di Dixon potessero aver ferito la povera ragazza. Così, con la cuffia in mano, scese in cucina. Il volto di Mary era gonfio di lacrime e scoppiò a piangere di nuovo quando vide Margaret. Oh, signorina, vi voleva bene a voi, vi voleva bene sul serio. E per un bel po' Margaret non riuscì a farle dire di più. Alla fine la sua compassione e la ramanzina di Dixon le tirarono fuori alcuni nuovi particolari. Nicholas Higgins era uscito la mattina, lasciando Bessie come aveva fatto il giorno prima, ma nel giro di un'ora era peggiorata. Un vicino era corso sul posto dove Mary stava lavorando. Non sapevano dove trovare il padre. Mary era entrata soltanto alcuni minuti prima che morisse. Che erano 2 o 3 giorni fa che ha chiesto di essere sepolta con qualcosa di vostro. Non si stancava mai di parlare di voi. Diceva che eravate la cosa più bella che aveva mai visto. Vi voleva tanto bene. Le sue ultime parole sono state: Valle a portare i miei affettuosi saluti e tieni papà lontano dall'alcol. Oh, venite a vederla, signorina. Sarebbe un bel omaggio per lei, lo so. Margaret esitò un po' prima di rispondere. Sì, forse posso. Sì, lo farò. Verrò prima del tè. Ma dov'è tuo padre, Mary? Mary scosse il capo e si alzò per andare. Signorina Hale, disse Dixon a bassa voce. A che cosa vi serve andare a vedere la salma di quella poveretta? Non avrei nulla in contrario se facesse del bene alla ragazza e non mi dispiacerebbe andarci io stessa se la facesse contenta. La maggior parte della gente comune ha questa idea che sia un rispetto nei confronti del defunto, quindi, disse voltandosi di scatto, verrò io a vedere tua sorella. La signorina Hale è occupata e non può venire, altrimenti lo farebbe. Lo sguardo che la ragazza rivolse a Margaret era pieno di malinconia. La visita di Dixon poteva anche essere un omaggio, ma non era la stessa cosa per la povera sorella, che aveva avuto persino i suoi piccoli attacchi di gelosia quando Bessie era in vita, per l'intimità che c'era tra lei e la giovane signora. No, Dixon, disse Margaret con decisione, ci andrò io. Mary, ci vediamo oggi pomeriggio. E per paura della sua stessa vigliaccheria se ne andò per allontanare ogni possibilità di mutare la sua decisione.